Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono nato il 25 luglio 1976 per la festa di San Jacopo, patrono di Pistoia. E alla sola età di quasi 6 anni ho fatto passare le 2 ore più lunghe e interminabili della vita dei miei genitori. Mi chiamo Massimo, vivo a Pistoia, sono aglianese di nascita e di mestiere distribuisco bevande. Ecco, se avete voglia di scrivere un racconto per questo programma o se avete voglia di scrivere un racconto in generale, se però in sostanza ascoltando voi siete qui avete pensato boh, forse anch'io c'ho una storia da raccontare, forse anch'io posso partecipare a questa mappa solo che non c'ho mai tempo o non so cosa raccontare, prendete ad esempio questa puntata, prendete ad esempio il racconto di Massimo. Il racconto di Massimo, lasciando stare il fatto che riguarda l'infanzia, perché potrebbe essere un racconto ambientato ieri invece che nel 1982, perché è esattamente quello che noi immaginiamo quando vi chiediamo una storia, cioè un piccolo episodio della vostra vita, che nel suo caso dura veramente poche ore, che però ha un inizio, una situazione iniziale, ha uno sviluppo, succede qualcosa e ha una fine. È, diciamo, è l'ossatura base di qualsiasi storia. Il racconto di Massimo racconta proprio quello e lo fa in un modo così garbato, così preciso soprattutto, con poche parole, ripeto, il suo racconto è anche abbastanza breve, credo fosse meno di una pagina. Lo fa però con parole così precise che noi non solo conosciamo lui a 6 anni e quindi forse un po' anche adesso che ne ha 36, ma conosciamo la sua famiglia, conosciamo suo papà, conosciamo addirittura un amico di suo papà e conosciamo quell'epoca lì, o perlomeno la riconosciamo. Per quanto mi riguarda la riconosco molto bene perché Massimo è nato, come ci siamo detti prima al telefono, 1 anno e 1 giorno dopo di me, quindi so di cosa stiamo parlando. Però questo è proprio l'episodio tipico, è proprio la storia tipica, quindi ringrazio Massimo per averla mandata e per averla scritta e ringrazio tutti quelli che continueranno a farlo e che invieranno le loro storie. Voi siete qui, @radio24.it. Entriamo nel dettaglio. La storia di Massimo è la storia che riguarda probabilmente molti di noi quando da bambini, un po' per sbaglio o magari no, un po' di proposito, siamo spariti dalla vista dei nostri genitori e l'abbiamo fatto magari per un'ora, magari per due, magari per un giorno intero e quelli sono morti dalla paura e quando ci hanno ritrovato hanno reagito in base a come immaginavano o ci hanno preso a schiaffoni sulle chiappe oppure hanno semplicemente tirato un sospiro di sollievo. 349 238 6666. Il profilo Facebook del programma è sempre quello. Voi siete qui, Radio 24. Mi scrivono tra gli altri Lucia, me lo ricordo, a 4 anni con la mia amichetta siamo andate a vedere le barchette ad Ostia da Casal Palocco, che è credo un quartiere di Roma, giusto? Casal Palocco, me lo ricordo, Casal Palocco, caro diario. Casal Palocco, passando per queste strade sento tutto un odore di pizze già pronte dentro a scatole di cartoni, cani dietro ai cortili, vabbè insomma, chiunque abbia visto quel film se lo ricorda. Insomma, partono da Casal Palocco, hanno 4 anni, prendiamo la Cristoforo Colombo, che per chiunque la conosca è una strada lunga e larga. Ci ha trovato la maestra dell'asilo per caso, ancora mi ricordo cosa è successo dopo. 349 238 6666. Enrico, a 10-12 anni ho preso la bicicletta e sono scappato. Poi però ho fatto una pausa da mia nonna, a circa 25 km da casa, e lei mi ha convinto a restare lì a dormire. Mi piace la nonna che media e convince il bambino di 12 anni. Guarda, stai qui. Magari passa la notte, domani vai dove vuoi, però stanotte stai qui. Maurizio, sono nato nel 66 e l'estate del 69, in una sera d'estate, ho deciso di andare a sentire i canterini staccandomi dalla mano di mamma e papà nell'affollatissima passeggiata di Viareggio. Quando mi hanno ritrovato, credo che lo schiaffo che presi lo abbiano sentito anche in Valtellina. Ce ne sono altre. Eccola qua, Roberta. Avrà avuto 5 anni. Quasi ogni pomeriggio si faceva una passeggiata in centro con la mamma e la zia Norma. Quel giorno ci siamo fermati a un negozio che vendeva biancheria per la casa. Non so perché c'era un trenino elettrico in vetrina che girava e girava e girava. Io mi sono addormentata in piedi, ipnotizzata dal trenino. Mia mamma e mia zia sono andate avanti, convinte che le seguissi. Quando mi sono svegliata pochi secondi dopo, non le ho trovate e ho cominciato a vagare in mezzo alla folla di pedoni. Credo mi abbiano ritrovate nel giro di pochi minuti, ma i più lunghi della mia e delle loro vite. Mia zia Norma mi ha dato uno schiaffo bello sonoro. Ora so che era di sollievo, ma uffa, mi avevano perso loro. 349-238-6666, la volta in cui vi siete persi o siete scappati e avete fatto passare un brutto quarto d'ora ai vostri genitori. Tutto nasce dalla storia di Massimo. Chiunque abbia vissuto negli anni 80 sentirà il sapore di quegli anni. Chi non li ha conosciuti, spero un pochettino riesca ad entrarci. Era il 5 luglio 1982, erano le 14, ed ero momentaneamente solo in casa. L'occasione era troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Sono nato il 25 luglio 1976 per la festa di San Jacopo, patrono di Pistoia, e alla sola età di quasi 6 anni ho fatto passare le 2 ore più lunghe e interminabili della vita dei miei genitori. Ad Agliana, il mio paese, scorre un fiume di nome Brana, dove 30 anni fa si pescavano i granocchi, come si dice in Toscana. Granocchi è il nome dei ranocchi, detto in dialetto toscano, e si pescano con una tecnica molto semplice, che è un impasto di bachi legati ad una lenza e granocchio a bocca facilmente. Purtroppo io non sono un esperto e quindi i granocchi non ne ho presi punti. A me i granocchi, specialmente fritti, piacevano un sacco. E mi ero messo in testa che dovevo pescarli e portarli a mia madre per cucinarli. Alle 14 mia madre andava al lavoro ed io, in 10 minuti, organizzai la fuga. Presi una canna indiana, della lenza, un secchiello e bacchini da pesca. Montai sulla mia bici Graziella con la sella lunga e via. La strada per arrivare all'imbocco dell'Argine era una tangenziale molto transitata da autoveicoli che mi sfrecciavano accanto a me e alla mia Graziella, a velocità sostenuta. Il rischio di essere travolto era molto alto, ma io, sicuro di me e impavido, percorsi 2 chilometri, arrivai al fiume. Portai la bici sopra l'argine, la scaraventai a terra e andai al punto più vicino all'acqua. Non ho un particolare ricordo della tecnica di pesca al granocchio. Ricordo solo che dovevo fare un impasto di bachi, legarli con la lenza, legare la lenza alla canna e aspettare che il granocchio abboccasse. Semplice, anche per un bambino di 6 anni. Ricordo che mi sedetti per terra e mentre aspettavo il granocchio non pensavo a niente. O meglio, non ricordo di avere pensato a niente. Cosa potevo pensare a soli 6 anni se non che a pescare granocchi? Dopo 2 ore, granocchi zero. All'improvviso però sentii il suono del clacson di un'auto. Era Paolo, il socio di mio padre. Scese dall'auto e mi disse che era meglio se salivo in auto con lui, perché se mi avesse trovato mio padre sarebbe stato molto peggio. Ricordo che caricammo la mia Graziella sulla sua Mercedes bianca e lunga, una delle prime diesel familiari. Mi portò a casa e avvisò mio padre che stavo bene e che ero praticamente ignaro di ciò che avevo fatto. Io praticamente ero ignaro di quello che stavo facendo e sicuramente se mio padre mi avesse trovato tanto liscia non l'avrei passata. Ho avuto la fortuna di essere stato trovato prima dal socio di mio padre, che mi ha portato a casa sua, e in quell'arco di tempo probabilmente mio padre ha sbollito la rabbia, ecco, e mi ha fatto solo una carezza. Quando venne a prendermi ricordo ancora i suoi occhi neri che fissavano i miei con un sguardo deciso. Io impaurito mi rannicchiai e lui con un sorriso disse: andiamo, c'è il secondo tempo d'Italia-Brasile. Mise la sua mano sulla mia testa e mi scosse i capelli. Mio padre è morto il 29 febbraio del 2012. Le sue mani sono il ricordo più vivo che ho di lui, perché erano grandi e buone. Redemption songs, redemption songs. Io sono sempre stato un bambino giudizioso. Non ho mai dato troppi problemi ai miei genitori, nemmeno troppi pensieri, forse anche troppo. Forse li ho abituati troppo bene. Mai una materia a settembre, niente alcol, niente brutte compagnie. Se avevo un orario tassativo di rientro, non ho mai sgarrato, non ho mai marinato la scuola, mai. Quando ho letto la storia di Massimo, però, mi è venuta la curiosità di capire se almeno una volta, anche inconsapevolmente, gli avevo fatti stare un po' in pensiero. E quando gliel'ho chiesto, mia mamma ci ha impiegato un po' di tempo, perché, dice, ero piuttosto noioso nel mio essere sempre ligio al dovere. Poi però le è venuto in mente un episodio che è piuttosto simile a quello di Massimo. È accaduto in estate e aveva a che fare con la pesca, ma non avevo 6 anni, ne avevo 12. All'epoca mi ero fatto comprare un canotto giallo e blu, sapete, di quelli che si comprano nei negozi di fronte alla spiaggia. Eravamo come sempre all'Isola d'Elba e il mio canotto era la cosa più preziosa che io avessi. Lo tenevo sul bagnasciuga di fronte agli ombrelloni, dove stava tutta la mia famiglia insieme agli amici, quelli con cui andavamo in vacanza. A volte lo legavo alla boa rossa, quella che c'è di fronte a tutte le spiagge italiane, anche se non si capisce bene a cosa serva. Filippo era il figlio del direttore dell'albergo in cui passavamo le vacanze e mi aveva fatto conoscere un posto, oltre le boe, oltre le barche all'ancora di fronte alla spiaggia, dove sul fondale sabbioso si nascondevano delle stelle marine. Pescarle era facile, perché loro si nascondevano appena sotto la sabbia, quindi andando molto vicino al fondale con la maschera si scorgeva la sagoma di una stella a 5 punte, sfumata sul fondo, come una sagoma che si intravede sotto un lenzuolo. Non che io andassi matto per le stelle marine, anzi, guardarle contorcersi al sole quando le portavi in superficie mi faceva anche un po' schifo. Tutti però sostenevano che le stelle marine erano una cosa bellissima. Le facevano seccare, poi le dipingevano di colori sgargianti e ci facevano dei quadretti. O altrimenti le appoggiavano in grandi insalatiere di cristallo piene di conchiglie. Insomma, le stelle marine a quell'epoca, alla fine degli anni Ottanta, erano un ottimo bottino con cui tornare in spiaggia dopo essere stato in mare un po' di tempo. Quel giorno però ero da solo e avevo legato il mio canotto alla poppa di una barca a vela, il cui proprietario mi aveva concesso quel beneficio in cambio di un paio di stelle marine, appena pescate. Immagino che l'avrebbe dipinte di colori sgargianti e ci avrebbe fatto dei quadretti da appendere nella sua cabina. Insomma, quel giorno, un po' perché ero solo, un po' perché stelle marine ce n'era un'infinità su quel fondale, probabilmente mi fermai un paio d'ore oltre il dovuto. Al rientro, oltretutto, con il vento contrario, il tragitto si allungò. Quando arrivai a riva, mio padre e i mariti delle famiglie amiche stavano già salendo su un gommone il cui proprietario si era offerto di partire alla mia ricerca, mentre mia mamma era consolata dalle sue amiche che si chinavano su di lei. Non ricordo cosa accadde quando mi videro arrivare, ricordo però che capii che qualcosa non andava e per sviare l'attenzione alzai la retina con il pescato e dissi: «Ne ho prese 13!» (349) 238 6666. È successo a tutti, credo, almeno una volta, di sparire dallo sguardo dei propri genitori e poi ritrovarseli terrorizzati un paio d'ore dopo. E sono diversi messaggi che arrivano. Primo giorno, prima elementare, mi scappa la pipì, chiedo il permesso per il bagno, imbocco il portone della scuola e vado a casa. Cazziatone, era il 1969. Mio figlio Nicola, 2 anni e mezzo, mi perde di vista a Madesimo e lo ritrovo dopo aver mobilitato tutti, seduto tranquillo sulla soglia di casa nostra ad aspettarmi. Ma al momento il messaggio più divertente è di Caterina, che dice: «Noi abbiamo perso mia sorella, 14 anni, durante il concerto di Capodanno in Piazza Duomo. Ricordo mia mamma sul palco insieme a Claudio Baglioni che la chiamava. L'abbiamo ritrovata che mangiava Pandoro al comando dei vigili di Piazza Duomo». 349-238-6666. Tutta questa storia perché un po' di anni fa, direi 30 anni fa precisi, Massimo andava a pescare dei granocchi. Pronto, Massimo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Che stai facendo, Massimo? Stai lavorando? Sì, sto lavorando. In questo momento sono sul furgone che sto andando in direzione Montale, una zona di Pistoia. Ok, siamo sempre in provincia di Pistoia. Perché tu dicevi, sì, distribuisci bevande ai ristoranti, ai bar, giusto? Sì, bar, ristoranti, alimentari. Quindi cariche. Ma tu hai uno di quei furgoni aperti lateralmente perché scarichi più facilmente, no? Esatto. Ah, proprio quello. Laterale, destro, sinistro e posteriore. Cioè è tutto aperto in sostanza. Tutto aperto. C'è solo un telone per coprire se dovesse, nel caso dovesse piovere come oggi. Ma non ti è mai capitato che qualcuno, cioè magari in motorino, no? Uno ci passa di fianco e dice, boh, qua basta che allungo la mano, prendo una lattina di birra. Sì, qualche mano ogni tanto l'hanno allungata. Sì? Sì. Ma e li hai colti sul fatto? Siamo fermi a scaricare. Ma e li hai colti sul fatto o ti sei accorto dopo contandoli? No, ti accorgi che manca la roba, difficile coglierli sul fatto. Cioè non sei mai corso dietro a un immotorino dicendo ridammi la bottiglia d'aranciata? No, ogni tanto passa qualche muratore che mi dice dammi una Moretti. Senti, tu vivi ancora a Pistoia? No, sì, vivi a Pistoia, sì. Però sei originario di Agliana. Di Agliana, sì. Che è un paesino? È una piccola città. Negli anni 80 era ancora un paese, adesso è proprio una città. Però, un po' strategico tra Prato e Pistoia. Un posto strategico. Mi diverte questa cosa, che è molto toscana, di chiamare i posti in cui si è nati o in cui si vive, anche se sono piccoli, come se fossero dei luoghi che tutti ovviamente conoscono, no? Siccome Agliana quanti abitanti avrà, scusa Massimo? Adesso 15.000. A 15.000 abitanti, insomma, quindi... non è una metropoli. Ok, non è una metropoli. Invece Pistoia quanti ne ha? Perché Pistoia è un po' una città sfortunata, nel senso che in Toscana tutte le altre città, non dico che non sia bella Pistoia, ci sono stato mezza volta, però sono tutte città bellissime e di Pistoia un po' ci si dimentica, giusto? Sì, esatto, si dimentica molto perché è influenzata molto da Lucca e Firenze. Ok, e quindi... È piccola e... Magari c'è molte chiese curate male, lasciate un po' andare, quindi non è molto volta al turismo. Senti, invece veniamo a quell'episodio, perché di tutto l'episodio che, come ti dicevo anche prima, è proprio esemplare, per quanto ci riguarda è proprio esemplare, arriva tantissimo di quella storia, di te, e arriva moltissimo dal ricordo di tuo padre, giusto, che è mancato, sì, a febbraio di quest'anno. Ed era una persona buona come sembra venir fuori? Sì, penso che chiunque lo possa confermare, che non ha mai toccato nessuno, non ha fatto male a nessuno, era proprio buono dentro, nell'animo. Che cosa faceva tuo babbo di mestiere? Di mestiere lui era tecnico di macchine da maglieria. Ah, ok. Che è un lavoro che esiste ancora o...? Ma... Qualcheduno che è rimasto lavora, ma poco, non sta scomparendo quel lavoro lì. Ma il manifatturiero, specialmente nella zona di Prato, sta andando fuori all'estero. Massimo, tu ci ascolti in furgone, giusto, immagino? Sì. Ascolti tutta la radio? Ascolti una parte della radio? No, io il pomeriggio ascolto Radio 24. Ascolto lo sport, i Magnifici Destini. E poi vai avanti. Vado avanti, mi fermo fino alla finanza, perché non ci capisco niente. Sì. Invece, scusa, e poi ti saluto, e questa è una curiosità mia, tu questa storia, ci arrivano moltissime storie che magari qualcuno aveva scritto precedentemente e tira fuori perché sente che noi le chiediamo. Tu questa l'hai scritta di proposito, ti è venuto in mente di scriverla ascoltando il programma? Sì. Quando l'hai scritta, Massimo? L'ho scritta nel mese di... giugno o maggio, giugno, non era tempo che era mancato mio padre, l'ho scritta proprio perché avevo questo ricordo forte di lui, le mani sono quelle che ho ancora davanti di mio padre. Massimo, io ti ringrazio moltissimo, e più tardi voglio descrivere con accuratezza la tua foto, perché credo che insieme al racconto sia una immagine perfetta della tua famiglia e di quell'epoca lì. Grazie ancora e buon lavoro. Ok. Ciao Massimo. Matteo. Ciao, grazie mille. È arrivato un messaggio che non c'entra proprio con lo sparire dalla vista dei genitori, però fa ridere. Mia sorella raccontò a sua madre che per un voto fatto doveva fare un pellegrinaggio a Lourdes. Mia madre, devotissima, acconsentì entusiasta. Solo che lei fu beccata dalla vicina di casa a Sanremo con il fidanzato. La foto di Massimo non è una foto qualunque, non è una foto solo sua, la trovate sul sito di Radio 24. Alla pagina di Voi Siete Qui, anzi vi chiedo proprio se avete voglia di completare e di chiudere il cerchio della storia che ha raccontato Massimo, che è una storia semplice ma è una vera storia, di andare a vedere questa fotografia sul sito della radio. È la foto di una famiglia dei primi anni 80 probabilmente, ad una cerimonia, immagino. Lo dico perché è una cerimonia, è un posto all'aperto, ci sono delle piante dietro ma c'è l'erba tagliata, quindi deve essere un giardino, un prato organizzato, e in fondo a sinistra si vede un telone, quindi forse è una festa all'aperto, una cerimonia tipo o un matrimonio o una comunione, insomma quelle feste che si fanno abitualmente nel mese di maggio. Loro sono la tipica famiglia italiana degli anni Ottanta. Lui c'ha una faccia da teppa come pochi, ha un'aria molestissima Massimo. Sua sorella è più grande, più posata, vestita di bianco. Il suo babbo con le mani grandi e la sua mamma. E la cosa incredibile delle foto degli anni Ottanta è che quando guardi gli uomini come il suo papà, che ci avrà 35 anni probabilmente, riesci ad immaginartelo come potrebbe essere oggi, con i capelli un po' più corti, le basette più corte. Ma le donne degli anni Ottanta e degli anni Settanta non riesci a immaginarti mai come potrebbero essere oggi. Padre. Sostantivo maschile. L'uomo che ha generato, rispetto alla prole e anche all'ambito familiare. Padre nobile, nelle compagnie teatrali del passato. Ruolo di attore con parti di uomo attempato e di alto rango. Titolo reverenziale che si premette al nome di monaci e frati che siano sacerdoti o ad altra loro qualifica. Oggi titolo dato comunemente anche ai sacerdoti secolari. Presso gli antichi romani, appellativo dei patrizi e dei senatori. Etimo latino patrem. Sì, appunto, non è pater, scusa. È patrem. Non so se è chiaro quello che ho detto prima, forse non lo è eccessivamente, però è come se le donne di oggi avessero delle donne attorno ai 30 anni, in questo caso questa signora mamma di Massimo avrà avuto 30 anni all'epoca, le donne di 30 anni oggi hanno una faccia diversa dalle donne di 30 anni degli anni 70-80, mentre gli uomini di meno, gli uomini riesci ad immaginarteli di più prendendo quelle foto lì. 349-238-6666, Roberto da Milano, mia madre raccontava a mia moglie di aver sentito suonare la porta. Ha aperto ed ero io. Avevo 3 anni, me ne ero andato dall'asilo. Era il 1963. Le preso un accidente e mi levarono dall'asilo. Ho perso mio fratello di 4 anni ai magazzini Lafayette di Parigi. Dopo una disperata ricerca l'abbiamo trovato con un commesso che cercavano di capirsi a vicenda. Gabriele, qual è quel libro? È di, credo sia di Ian McEwan. La storia del bambino che viene perso al supermercato, poi però non viene più ritrovato. Te lo ricordi? Qualcuno se lo ricorda? No, non è un racconto, è proprio un romanzo. Forse è Bambini nel vento, forse. Però non sono convinto. Così, vabbè. Se qualcuno se lo ricorda, 349-238-6666. Vi parlo di un altro libro adesso, di cui ho già parlato una volta, che mi è piaciuto moltissimo, che si chiama Le mappe dei miei sogni. Ed è la storia di questo ragazzino, di fatto un ragazzino prodigio, che all'età di circa 13 anni, mi pare, viene invitato a partecipare ad un convegno, perché lui è un piccolo genio, è uno che disegna mappe di tutto, tiene i conti, è un piccolo matematico. Viene invitato, quelli che lo invitano non sanno che lui ha solo 12 anni, e lui decide di partire. Lascia la sua famiglia che vive in un ranch con sua madre, che lui chiama la dottoressa Claire, anche se è sua madre, e lascia questa lettera ai propri genitori. Cara famiglia Spivet, perché questo è il suo nome, sono partito per un impegno di lavoro, starò via un po', non vi preoccupate, andrà tutto bene e vi scriverò. Ogni cosa andrà e va per il meglio. Grazie per esservi presi cura di me. Siete una delle migliori famiglie. Con affetto. Questa è la lettera che scrive e questo è il modo in cui la lascia e parte. Mi restava soltanto una cosa da fare. Mi intrufolai in cucina e infilai la lettera nel barattolo dei biscotti. Non l'avrebbero trovata prima di pranzo, quando Grace prendeva i suoi biscotti, e per quell'ora io avrei accumulato un discreto vantaggio. Sapevo che molto probabilmente Grace non avrebbe tenuto la bocca chiusa riguardo alla nostra chiacchierata e che alla fine i miei genitori avrebbero intuito la mia destinazione. E sapevo anche che una loro telefonata avrebbe potuto precedere il mio arrivo a Washington. Ma questa eventualità, così come qualsiasi altra in quel momento, non dipendeva da me. E così l'archiviai nella lista delle cose di cui non preoccuparsi, fingendo di non pensarci più. Diretto all'ingresso, attraversai il salone e vidi che in TV stavano dando il film Alba Fatale, senza sonoro. Il mio cane, molto bene, entrò nel salone, buio. Faceva un ticchettio con le zampe. «Ciao, molto bene», gli dissi. Gli occhi erano ancora incollati sullo schermo. Mi mancherai. Anche molto bene stavo guardando la TV. Dove vai? Mi chiese. Per un istante temetti che se gli avessi detto qualcosa avrebbe riferito tutto a mia mamma, la dottoressa Claire. Poi mi resi conto dell'assurdità di un tale ragionamento. Molto bene non aveva il dono del linguaggio. Vado a Washington, gli dissi. Fico, rispose lui. Sì, però sono un po' nervoso. Non dovresti, mi disse. Ok, dissi io. Tornerai a casa? Mi chiese. Sì, risposi. Penso proprio di sì. Bene, fece. Abbiamo bisogno di te, qui. Ah sì? Gli chiesi. E mi voltai verso di lui. Molto bene, non mi rispose. Per un po' guardammo il film. Poi io lo strinsi fra le braccia. E molto bene mi leccò un orecchio. Contro la tempia il suo muso mi sembrò più freddo del solito. Poi tirai sulla valigia, ci ficcai dentro il quaderno della dottoressa Claire e aprì la porta. Il libro, vi ripeto, si chiama Le mappe dei miei sogni e l'autore è un autore svedese che stranamente non scrive dei gialli, non scrive dei noir, si chiama Larsen Riff. Forse incomincerà a farle quando scoprirà che così venderebbe milioni di copie, mentre questo ne avrà vendute... milioni no, ma sicuramente molte, perché arriva da là. C'è qualcuno che se l'è presa per la storia di Pistoia. Allora, è chiaro che quando si dice che una città è meno conosciuta delle altre, chi ci vive si sente un po' un picciu probabilmente. Non è così, voglio dire, anche Sant'Agata Sponsilli è un posto minuscolo, c'ha un festival, ma non è conosciuto. Lo dico perché qualcuno mi scrive: e allora Pistoia Blues ti sembra poco? No, Patrizio, non è poco Pistoia Blues e nemmeno Pistoia è poco, semplicemente la trovo sia una città un po' sfortunata. Guarda, vale lo stesso per quanto riguarda l'Umbria per Terni. Terni è una bella città che però, o Foligno come dice Tiziano Bonini, esatto, sono bellissime città che però accanto a città come Perugia, come Spoleto, come Assisi, passano semplicemente in secondo piano. Poi, no? Vengo da Romentino, ragazzi, vi farei fare un giro a Romentino, che è la città più bella del mondo. Grazie a quelli che mi ricordano che il libro invece che mi è venuto in mente prima al volo di Ian McEwan, in cui un bambino viene smarrito al supermercato e non viene più trovato, è Child in Time, tradotto in italiano Bambini nel tempo. Ian McEwan è in Audi, giusto per dare tutte quante i dettagli. Io ringrazio Massimo che ha scritto la storia di oggi, che mi ha, come avete capito, mi ha conquistato completamente. Ringrazio Paolino Corleoni, ringrazio Margherita Ina e ringrazio Tiziano Bonini. La storia di oggi era sua, era di Massimo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Antonello, vivo a La Maddalena in Sardegna. Quella di domani è la mia storia. Si parla di nuoto e sclerosi multipla. Questa è la mia storia e io sono qui.